Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Avere fiducia nella scienza non vuol dire aver fiducia in qualcosa di astratto. Vuol dire aver fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni. Questo è il monito e il consiglio anche del Presidente della Repubblica Mattarella, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, a proposito di certi atteggiamenti magari esagerati, di allarmismi e soprattutto di comportamenti, come ha detto, a volte isterici senza ragione. Quindi rassicurante Mattarella, soprattutto diciamo, ha fatto un appello al buon senso e all'intelligenza e a vedere man mano effettivamente qual è l'evoluzione della situazione emergenziale che stiamo vivendo a livello mondiale. È vero che anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non rassicura, nel senso che dice questo è un momento in cui bisogna intervenire, tutti i paesi, insieme all'ONU anche dice, devono dare il massimo, e dice anche che la minaccia mondiale è a livello massimo in questo momento. Però ognuno, ogni paese, e soprattutto se facessimo in modo coordinato, come si è chiesto più volte, in particolare dall'Europa, deve dare il suo contributo. Per quanto riguarda l'Italia, fra l'altro, stasera è in corso il Consiglio dei Ministri e dovrebbe far passare, praticamente varare un decreto con le prime misure per quanto riguarda di aiuto e di sostegno economico alle famiglie e alle aziende nelle zone cosiddette rosse. Poi ha detto il Ministro dell'Economia Gualtieri, che sentirete, ha detto anche che si passerà a un secondo passaggio per invece per aiutare il sistema Italia nel suo complesso dal punto di vista economico. Insomma, tante cose articolate da raccontarvi anche oggi. Poi ci occuperemo naturalmente di altre notizie importanti, come la situazione sempre più disperata in Siria. Poi parleremo anche dello sport, il meteo. Insomma, allacciate le cinture, stiamo per partire. Ricordatevi che se volete scrivere i vostri commenti c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi, oppure li potete inviare via SMS o WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Seguite il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, e durante il giorno, se volete alcune anticipazioni, il Twitter è Roby con la Y linetta bassa Giordano. Coronavirus, sono 821 i contagiati in Italia, il numero tiene conto delle 21 vittime con patologie pregresse e dei pazienti guariti. L'OMS parla di minaccia globale elevata, Piazza Affari perde altri 3,5 punti, più di 11 in una settimana. Questa sera dal governo italiano le prime misure economiche, arrivano aiuti al turismo, stop a contributi e ritenute in tutta Italia. Lombardia, la regione annuncia di voler prolungare le misure restrittive per un'altra settimana, chiusura delle scuole compresa, ma a decidere sarà domani il governo. La guerra in Siria, controffensiva turca, rischio carestia per i profughi. Il governo di Ankara non fermerà più i migranti che vogliono venire in Europa. Alle 22 ora italiana, riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza. L'Ilva contro l'ordinanza del sindaco di Taranto, illegittimità, richiesta di fermare le missioni entro 30 giorni oppure stop. Questa è la richiesta del sindaco di Taranto di ieri. E poi il calcio, doppia sfida tra Italia e Spagna negli ottavi di finale di Europa League maschile. L'Inter affronterà il Getafe e la Roma il Siviglia. Ovviamente partiamo quindi dal tema centrale ormai in buona parte del mondo. Per quanto riguarda l'Italia, secondo i dati aggiornati dalla Protezione Civile, sono 821 i contagiati per il coronavirus. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Il numero tiene conto, come sentirete, anche delle 21 vittime, 4 in più di ieri, e dei pazienti guariti. Le persone ammalate sono in totale 821, a cui si aggiungono 46 guariti e 21 deceduti. Il dato importante che ritengo di comunicare a fronte di questo numero di 821 persone che sono affette dal coronavirus è che la metà, 412, sono persone che sono asintomatiche o con sintomi lievissimi, talmente lievi che non hanno bisogno di ospedalizzazione e quindi sono in isolamento domiciliare fiduciario. E stasera, come vi dicevo, arriveranno le prime misure del governo per fronteggiare la crisi e aiutare le aziende in difficoltà proprio per la paura del contagio. Sentiamo il Ministro dell'Economia Gualtieri. Presenteremo questa bozza di decreto legge con le prime misure urgenti per sostenere le famiglie, i lavoratori, le imprese più colpiti dall'emergenza del coronavirus e dal suo impatto sull'economia. È un primo segnale concreto di sostegno, a cui ne seguirà un altro. Stiamo lavorando per un secondo decreto con ulteriori misure la prossima settimana. E poi approfondiremo anche questo aspetto, andremo più nel dettaglio per le misure del governo, anche in particolare se arrivano in modo definitivo. Intanto si chiude una settimana di pesanti cali sui mercati a causa della crisi dettata dal coronavirus. A Wall Street Dow Jones meno 2,26, Nasdaq giù di quasi un punto percentuale. Nuovo pesante KO per le borse europee con perdite intorno al 4% nell'ultima seduta settimanale sulla paura per la diffusione del coronavirus e per i suoi effetti recessivi sull'economia globale. Piazza Affari ha perso un alto 3,58% nell'indice FTSE MIB, nell'intera settimana ha ceduto l'11,2% tornando ai minimi da ottobre 2019. Si tratta per Milano della nona peggiore settimana di sempre. Le vendite hanno colpito sul mercato azionario, in particolare le utility e il settore petrolifero, vista la forte correzione dei prezzi del petrolio tornato ai minimi dal 2017. I prezzi del greggio sono arretrati del 15% circa nell'intera settimana. Vendite anche sull'oro, acquisti sui titoli di Stato e sullo yen. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. Per quanto riguarda la Lombardia, gli esperti dicono chiaramente che la soluzione non sarà veloce, questo a una settimana dall'inizio dell'emergenza del coronavirus. Ora, il principale obiettivo è ridurre il numero dei contagi e per questo la regione chiede al governo una proroga delle restrizioni introdotte domenica scorsa, chiusura delle scuole compresa. La medicina è amara, ma al momento è l'unica possibile. Gli infettivologi lo spiegano chiaramente in un vertice al Pirellone. Per questo la Lombardia chiede una proroga di un'altra settimana della zona rossa e di tutte le restrizioni introdotte nel resto della regione. Lo ha chiarito l'assessore al welfare Giulio Gallera. Mantenere per un'altra settimana la sostanza delle misure di contenimento già attuate, sia quella nei comuni della zona rossa che quella prevista in tutta la regione. Perché solo con 14 giorni che corrispondono al tempo di incubazione potremmo infatti capire se le misure permettono di passare dalla diffusione 1 a 2 a una diffusione 1 a 1. Sarà il governo a decidere anche sull'ulteriore chiusura delle scuole in Lombardia, mentre le università confermano lo stop fino al 7 marzo. Le restrizioni servono per garantire la tenuta del sistema sanitario, che è al limite, ammettono infettivologi come Massimo Galli dell'ospedale Sacco, soprattutto per strutture come quelle di Lodi e Cremona, che hanno registrato picchi di ricoveri anche in terapia intensiva, tanto da richiedere l'aiuto di altre strutture regionali. In controtendenza, invece, proprio nel cuore della zona rossa, riaprono gli uffici postali in 5 comuni dell'Lodigiano per consentire il pagamento delle pensioni. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E casi di coronavirus non riguardano naturalmente solo il nostro paese. In queste ore le interlocuzioni sono al massimo con tutti gli stati che hanno individuato delle restrizioni, perché per me non ha senso neanche mettere nelle restrizioni l'intera regione Lombardia o l'intera regione Veneto. Non ha senso. Così il ministro degli esteri Di Maio, da Pomigliano d'Arco, ribadisce che il governo è al lavoro per evitare restrizioni a chi parte dall'Italia, considerato ormai uno dei paesi focolai del coronavirus. 24, secondo l'OMS, i casi esportati finora dai nostri connazionali in 14 paesi, tra cui Messico, Nigeria e Svizzera. Quest'ultima, in via precauzionale, ha deciso di chiudere gli eventi con più di 1000 persone, tra cui il Salone dell'Auto di Ginevra. Per i timori della malattia, i passeggeri degli aeroporti lombardi sono diminuiti di oltre il 30% negli ultimi 3 giorni. Diverse le compagnie che per mancanza di prenotazioni hanno ridotto i voli. Lo ha fatto British Airways, EasyJet e anche l'Italia si adegua eliminando i collegamenti su 38 rotte a causa del gran numero di posti lasciati vuoti. All'estero, tra gli ultimi provvedimenti presi per arginare la diffusione dei contagi, la sospensione da parte della Germania dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti, i migranti cioè che dovevano rientrare in Italia, mentre il Libano ha deciso di chiudere fuori i viaggiatori provenienti da Cina, Italia, Corea del Sud e Iran. Quest'ultimo paese ha deciso di chiudere il Parlamento come misura di prevenzione dopo che diversi deputati e altri funzionari di Teheran sono risultati positivi ai test. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sentivamo della Lombardia che vorrebbe appunto lasciare chiuse le scuole per un'altra settimana. Il Veneto invece vorrebbe riaprirle. Allora facciamo un po' il punto. Il premier Conte fa sapere che arriverà domani il suo decreto sulla riapertura delle scuole chiuse nei giorni scorsi per i timori legati alla diffusione del coronavirus. L'annuncio arriva dopo le dichiarazioni di diversi governatori che nelle ultime ore si erano detti favorevoli ad un ritorno alla normalità nel settore dell'istruzione e per questo avevano sollecitato indicazioni da parte del governo e dell'Istituto Superiore di Sanità. Il Trentino Alto Adige ha già fatto sapere che i suoi studenti torneranno in classe lunedì. Sulla stessa data si ragiona anche in Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Campania. Per il Piemonte si parla invece della metà della prossima settimana. Da lunedì scorso gli studenti costretti a rimanere a casa in tutta Italia sono stati oltre 5 milioni dopo le chiusure disposte da 7 regioni, 2 province e diverse città, chiusure che di sicuro resteranno invece in vigore anche nei prossimi giorni per gli istituti scolastici che si trovano nelle zone rosse di Lombardia e Veneto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo alla politica e soprattutto all'appello del Presidente della Repubblica Mattarella che avete sentito, basta paure irrazionali. Avere fiducia nella scienza non vuol dire aver fiducia in qualcosa di astratto, vuol dire aver fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni. Tra telescuola e lezioni online nelle università, tra la telemedicina e lo smart working generalizzato nelle aziende più pronte, l'emergenza coronavirus ha accelerato alcune pratiche alternative di cura, di studio, di lavoro. Se ne parla domani nel reportage Quarantena 2.0. Anche le tecnologie digitali possono aiutare la gestione dell'epidemia di coronavirus in una quarantena che ormai è 2.0. Tra lezioni online, smart working, telemedicina, messe celebrate su YouTube, spesa al supermercato via web, chat e social per mitigare l'isolamento dei cittadini nelle zone rosse. Nel reportage che andrà in onda su Radio 24 domani alle 8.15 faremo un tour tra modelli alternativi di assistenza, studio e lavoro agile. Tutte soluzioni trovate sull'onda dell'emergenza che diventano gioco forza, sperimentazioni collettive di nuovi stili di vita, oltre i pregiudizi e le lentezze normative che spesso ne hanno rallentato l'applicazione. Giuseppe Scaratti, docente di psicologia del lavoro alla Facoltà di Economia della Cattolica di Milano. Nella difficoltà, nella tragedia di una situazione appunto che non è piacevole, penso che questa possibilità di investire, di praticare un po' esperienze anche pilota di smart working possa consolidare un trend che in molte aziende è già avviato da un po' di tempo. C'è il rischio, il limite di un isolamento, di una perdita delle dimensioni di socialità che il lavoro in presenza con altri consente comunque e veicola. Sicuramente un misto tra dimensioni smart working e dimensioni in presenza si potrebbe garantire davvero uno sviluppo anche delle culture organizzative e lavorative nel nostro paese. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero adesso, il coronavirus in Cina ha ridotto le emissioni di CO2 del 25%. Le misure di quarantena con il conseguente calo delle attività delle centrali elettriche non solo hanno infatti avuto effetti sull'ambiente, in particolare sul calo degli inquinanti emessi in atmosfera. Le misure per il rilancio dell'economia nel paese asiatico potrebbero però annullare questi effetti, è quanto sottolinea uno studio pubblicato sul sito specializzato Carbon Brief. Restiamo all'estero con la situazione in Siria. Controffensiva della Turchia dopo i raid siriani a Idlib. Le truppe di Ankara hanno lanciato un contrattacco neutralizzando, dicono, 329 soldati del regime di Assad e colpendo oltre 200 obiettivi nemici. Il governo turco ha annunciato nello stesso tempo che non fermerà più i migranti che vogliono andare in Europa e il Ministero degli Esteri fa sapere che alcuni migranti e richiedenti asilo hanno iniziato a muoversi verso i confini con l'Unione Europea. La Grecia rafforza i controlli, l'Unione Europea e la NATO chiedono di interrompere l'escalation a Idlib e questa sera, a ora italiana alle 22, ci dovrebbe essere una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza, poi ne parleremo più tardi nel corso di questa puntata. Lo spazio, tanto un po' per, diciamo, astrarci da tutte queste cose pesanti, la Terra ha una nuova luna, è un asteroide che è stato catturato dalla forza di gravità del nostro pianeta e che secondo i calcoli lo accompagnerà fino ad aprile prossimo. Si chiama 2020 CD3, al diametro di circa 3 metri ed è stato individuato dagli astronomi del Catalina Sky Survey, un progetto di ricerca condotto dall'Università dell'Arizona per trovare comete e asteroidi vicino alla Terra. Per chiudere lo sport, i sorteggi per gli ottavi di Europa League, ne parleremo più tardi. E poi notizia che è arrivata poco fa, una bella notizia: l'azzurro Filippo Ganna ha vinto la medaglia d'oro nel torneo dell'inseguimento ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Berlino. Bene, con questa bella notizia ci possiamo lasciare brevemente per aggiornare chi sta viaggiando e poi dopo cominciamo ad approfondire con gli ospiti gli argomenti in primissimo piano. Torno ratta come la folgore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti sempre ricchissimi di informazioni, di aggiornamenti in diretta. Vi ho dato almeno come aggiornamento una bella notizia per quanto riguarda lo sport italiano, con l'azzurro Filippo Ganna che ha vinto la medaglia d'oro nel torneo dell'inseguimento ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Berlino e si è anche qualificato col miglior tempo, che è anche il nuovo record del mondo. Poi ovviamente le altre notizie sono principali, legate all'emergenza coronavirus, e poi parleremo anche della guerra in Siria, perché continua soprattutto la popolazione siriana a pagare un carissimo prezzo per questa guerra senza fine. Ci collegheremo poi per parlarne. E poi l'Ilva contro l'ordinanza del sindaco di Taranto, che ieri aveva detto si fermano le emissioni tossiche entro 30 giorni oppure stop. E poi per il calcio sentiremo quali sono le sfide che attendono l'Italia per l'Europa League. Un riassunto degli aggiornamenti principali legati appunto all'epidemia del coronavirus l'avete appena sentito nella sintesi della giornata. Vi ricordo per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Dice prima, ho visto un ascoltatore che diceva: ma cosa vuol dire che l'OMS non è rassicurante, voi dovete dare le notizie così come sono? Quelle che sono, così ve l'ho raccontata, quello che ha detto oggi l'OMS e anche quello che dicono le istituzioni italiane, i presidenti delle regioni, il governo, eccetera eccetera. Poi vi fate voi una vostra idea. Abbiamo avuto e continuiamo a avere tanti scienziati, virologi, esperti, e ovviamente la situazione non è facile per nessuno, perché questo virus evidentemente non si conosce fino in fondo, e anche prendere delle decisioni, che siano per forza quelle assolutamente giuste, non è cosa facile. Per quanto riguarda la politica, oggi c'è ancora qualche strascico delle furenti polemiche di questi giorni, attorno appunto sempre a questo modo di affrontare l'epidemia, che riassumerei con alcuni passaggi che vi faccio sentire tra poco dei protagonisti, per poi però passare alle cose importanti e utili su cui appunto è fondamentale l'unità della politica, delle istituzioni e del paese. Allora, vi ho fatto sentire anche nei giorni scorsi, oggi un po' vi dicevo c'è ancora lo strascico, con il leader della Lega Salvini che attacca il governo e chiede un governo di unità nazionale che traghetti il paese alle elezioni. La risposta poi data dal presidente del Consiglio Conte e il commento di Di Maio del Movimento 5 Stelle, ministro degli Esteri. Sentiamo. È pienamente operativo e stiamo lavorando ad un'emergenza che è quella del coronavirus, che richiede il massimo sforzo da parte di tutte le forze politiche, e sapere che in questi giorni c'è gente che si chiude in una stanza e prova a fare giochi politici sul governo è veramente disarmante. Figurarsi se ho voglia di andare al governo col PD. Ma figurati, mai col PD. Noi, a differenza dei 5 Stelle, l'abbiamo sempre detto e sempre lo ripeteremo. Semplicemente ritengo che in un momento di emergenza sanitaria ed economica occorrerebbe un governo in grado di affrontare un'emergenza sanitaria ed economica. Adesso qualcuno si permette di dire: gli italiani no, i prodotti italiani no, i camionisti italiani no, gli avvocati italiani no, gli studenti italiani no, ma stiamo scherzando. Certo, in un momento come questo, ripeto, servirebbe un governo, servirebbe un presidente del Consiglio, servirebbe un ministro degli esteri, servirebbe un commissario europeo italiano con le palle che sappia difendere l'interesse nazionale, i lavoratori italiani, gli imprenditori italiani, i prodotti italiani. Oggi ci viene proposto di aprire tutto. Però quegli stessi che oggi ci dicono aprite tutto, che non so cosa voglia dire in particolare, ieri ci dicevano chiudete tutto. C'è stato proposto anche di chiudere e di sospendere il trattato di Schengen. Abbiamo cercato di spiegare che chiudere i confini, perché questo significava chiudere tutto, avrebbe procurato alla nostra nazione un danno irreparabile, irreversibile, economico. Sarebbe stata una soluzione peraltro non sostenibile, non praticabile. Oggi ci viene detto il contrario. Ecco, bisogna avere, quando si affrontano queste emergenze, bisogna conservarsi lucidi, mantenere un senso di responsabilità, non avere nessuna arroganza, nessuna presunzione, ma basare sempre le decisioni, ripeto, sugli esperti, sul comitato tecnico scientifico. Perché è tempo di aiutare il sistema Italia. Appunto, vi dicevo che in discussione nel Consiglio dei Ministri la bozza del decreto per fronteggiare appunto l'impatto economico dell'epidemia, che sappiamo ha avuto delle conseguenze e le avrà, insomma, piuttosto pesanti, e quindi il sostegno economico per famiglie e aziende, in particolare dall'inizio delle zone rosse. Poi servirà almeno un'altra settimana per un'operazione generalizzata di sostegno all'economia, che potrebbe avere però bisogno, ha detto il ministro Gualtieri, di uno o più decreti. Però sentiamo anche i passaggi del Ministro dell'Economia. Presenteremo questa bozza di decreto legge con le prime misure urgenti per sostenere le famiglie, i lavoratori, le imprese più colpiti dall'emergenza del coronavirus e dal suo impatto sull'economia. È un primo segnale concreto di sostegno, a cui ne seguirà un altro. Stiamo lavorando per un secondo decreto con ulteriori misure la prossima settimana. Siamo in parallelo al lavoro sul secondo decreto, che conterrà degli stanziamenti per misure di sostegno ancora sia ai territori più colpiti, ma anche ai settori produttivi che risentono delle conseguenze economiche di questa crisi, che il Paese deve affrontare con determinazione, con unità, con serietà e anche con fiducia. E questo, dicevo, di Gualtieri, ha parlato di un secondo passaggio che ci sarà poi per quanto riguarda l'economia nel suo complesso del nostro paese. Però, caro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, benvenuto. Ciao, caro. Buonasera Alberto. A tutti. Concentriamoci prima sulle misure del decreto che dovrebbe essere varato dal governo in serata. Sì, è un primo pacchetto concreto, come ha detto giustamente il Ministro dell'Economia Gualtieri, perché innanzitutto prevede una moratoria nel versamento dei contributi da parte delle imprese del turismo, che è obiettivamente il settore che ha pagato il prezzo più alto. Si è visto svanire nel giro di 48 ore, poco più, meno di una settimana, sostanzialmente prenotazioni fino a giugno e anche di più probabilmente. Insomma, teniamo sempre presente che è un settore che vale 150 miliardi nel nostro paese ed è uno dei grandi driver della crescita del PIL italiano. Ebbene, probabilmente sarà appunto un primo beneficio, un po' di ossigeno per le casse martoriate in questo momento delle aziende del settore, non dover subito far fronte agli impegni di pagamento dei contributi dei propri dipendenti. È importante che siano stati rimessi in gioco circa 350 milioni per le aziende esportatrici da un fondo SIMEST. Adesso non voglio entrare troppo nei tecnicismi, è inutile, ma insomma sono soldi che servono poi a aiutare le imprese a riorientare i propri mercati di sbocco, visto che poi la Cina si è congelata ed era un mercato importante, non solo quello. C'è poi un pacchetto importante sulla pubblica amministrazione, perché lì è previsto un aumento delle dotazioni informatiche, cioè computer banalmente. Per fare anche smart working. Per aumentare lo smart working del pubblico impiego, sostanzialmente appunto il lavoro a distanza, che tanto sta salvando quel po' di operatività che le imprese riescono ancora a tenere in piedi. E sempre per i pubblici dipendenti c'è anche la rassicurazione che le giornate perse verranno comunque pagate, quindi non ci saranno decurtazioni di stipendio. Parimenti, i dipendenti dei bar, degli esercizi che sono stati falcidiati dalle ordinanze in questi giorni, l'abbiamo visto, i bar che chiudevano alle 18, hanno dovuto chiudere i ristoranti, eccetera, potranno godere della cassa integrazione in deroga, come era accaduto in altri periodi di crisi, perché ricordiamo, la cassa integrazione generalmente è uno strumento che viene utilizzato dall'industria ed è autofinanziato peraltro da lavoratori e imprese che se lo pagano mese per mese, lo versano in un fondo che poi serve appunto a gestire questi assegni di ammortizzatori sociali. Questa cosa viene estesa comunque per fiscalità generale anche a questo tipo di categorie che non hanno questo tipo di strumenti, questo tipo di fondi. Però è anche questo è importante per quel tipo di lavoratori o per quel tipo di settore. Credo che sia confermato anche le cose che stiamo scrivendo poi da giorni, che come anticipazioni, uno sforzo ulteriore soprattutto per le zone rosse molto importante di allungamento delle scadenze, scadenze fiscali, scadenze di cartelle esattoriali, rinvii di pagamenti dell'IMU, della tassa rifiuti, addirittura dell'RC auto, addirittura della parte di canone della TV che viene pagato via bolletta, probabilmente il rinvio della stessa bolletta per l'energia e del gas, insomma una serie di provvedimenti che servono ad alleggerire il carico dipendenze che questo tipo di persone che sono state messe in quarantena, che si sono trovati dall'oggi al domani in una situazione di, dove l'economia è sparita, effettivamente ne avevano bisogno. Questo mi sembra certo. Finalmente un atto concreto e visibile. Vedo che Salvini poco fa ha detto, dopo una settimana di caos da coronavirus, dal governo solo briciole per le famiglie e imprese italiane, lo stop alle cartelle esattoriali, ai versamenti e ai adempimenti fiscali e burocratici deve essere esteso a tutta Italia, non solo a qualche decina di comuni. Sveglia, scrive su Facebook. Però vedo che poco fa, mi sembra di aver visto la risposta di Gualtieri a questo, dice ecco stop alle cartelle per tutta, non è una decisione saggia, cioè la sospensione integrale dei pagamenti fiscali non è idea saggia, è utile, noi ci concentriamo sulle cose serie che hanno impatto proporzionato agli effetti economici del virus. Beh, francamente mi sentirei di sottoscriverlo, diciamo la verità, in una zona dove non sta succedendo niente, dove tutto funziona, non vedo perché quale sia il motivo per pagare. Cui uno non deve pagare una multa, insomma non... Un conto è la propaganda, un conto è la politica, bisogna anche stare attenti, perché io credo che anche Salvini, se esagera troppo a strumentalizzare la cosa, probabilmente incide anche sul suo elettorato, temo. Poi leggevo che appunto Gallera ha parlato per quanto riguarda Lombardia, no? Abbiamo sentito oggi nella riunione, poi nella conferenza stampa della Regione Lombardia, l'assessore al welfare, che saranno probabilmente prolungate per altri 7 giorni. La chiusura delle scuole e di varie attività, manifestazioni eccetera per quanto riguarda appunto questa regione, dice per questa è una nostra proposta, poi sarà il governo a decidere, no? Beh sì, anche perché appunto proprio viste il free riding e le fughe in avanti che alcune regioni hanno fatto in solitario e creando anche un po' di destabilizzazione istituzionale, c'è la proposta dell'ente locale e poi è l'unità centrale che gestisce la crisi che decide, ora vedremo. E poi io ti lascerei con questo bacio di Hayez, dai, esibitore, in epoca di coronavirus, un murales che ha fatto lo street art TV Boy a Milano, con gli amanti che tengono in mano una confezione di Amuchina e indossano la mascherina. Che ne pensi di questa immagine? L'amore ai tempi del Covid-19. Sì, l'amore ai tempi della Amuchina, diciamo, perché effettivamente c'è qualcuno che da questa crisi ci sta guadagnando e parecchio, e bisogna dire che l'economia è anche fatta di questo. Però sarebbe bene tornare alla normalità. Non vedo l'ora di tornare a un tempo in cui la Amuchina sia una cosa che magari serve giusto se ti sporchi in situazioni le mani, particolari, ma non diventa giro, non un oggetto della mia quotidianità. Un oggetto di culto. Grazie al nostro Alberto Rioli, direttore di Sole 24 Ore. Buon lavoro, caro Alberto. Grazie. Ciao, a presto. Adesso ci prendiamo una pausa di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o li potete inviare via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state seguendo Effetto Notte, se lo state ascoltando come tutte le sere, siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo che un giorno non potete dire io questa non la sapevo, a proposito delle notizie più importanti, in particolare lo sapete da tanto tempo con quelle in primissimo piano che sono tutte collegate all'epidemia di coronavirus. Roberta Giordano con voi, abbiamo un po' illustrato le misure che sta preparando il governo in un primo decreto per dare sostegno economico alle cosiddette zone rosse in Italia, dove sono scoppiati i focolai di epidemia, che quindi sono chiuse in quarantena da diverso tempo, e quindi sostegno economico per le imprese e per le famiglie. E poi, come ha detto il ministro Gualtieri, lo avete sentito, si passerà nelle prossime settimane con almeno 2 altri decreti a misure di sostegno complessivo del sistema Italia, del sistema economico, perché l'impatto economico, come sapete, l'abbiamo raccontato tante volte in questi giorni, purtroppo è veramente pesante. Adesso parliamo vi farei sentire che cosa ha detto oggi, abbiamo sentito Borrelli a Protezione Civile, adesso vi farei sentire invece l'assessore Guelf della Regione Lombardia, Gallera. Che cosa stiamo facendo e che cosa dobbiamo continuare a fare? E questa è la proposta che noi abbiamo sottoposto ai nostri esperti, mantenere per un'altra settimana la sostanza delle misure di contenimento già attuate, sia quella nei comuni della zona rossa che quella prevista in tutta la regione, perché solo con 14 giorni che corrispondono al tempo di incubazione potremmo infatti capire se le misure permettono di passare dalla diffusione 1 a 2 a una diffusione 1 a 1. Quindi praticamente per quanto riguarda la Lombardia, Gallera, l'assessore regionale, ha fatto capire che la proposta per quanto riguarda la regione è quella di continuare ancora una settimana con le misure stringenti, compresa la chiusura delle scuole che già c'è stata nella settimana scorsa, questa settimana che si sta chiudendo. Sentiamo che cosa ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, nonché capo della protezione civile Borrelli, a proposito sempre delle cosiddette zone rosse. Non abbiamo profili da evidenziare di criticità sotto il profilo sanitario e anche in termini di assistenza alla popolazione. Prosegue regolarmente la vita nelle zone rosse, nelle due zone rosse, anzi voglio ricordare che riapriranno le poste il 2 marzo nella zona rossa, in alcuni comuni della zona rossa, quindi saranno regolarmente pagate le pensioni e la vita proseguirà regolarmente in quelle zone. Quindi da una parte si cerca piano piano di ripartire, di ritornare a una vita normale, però sempre diciamo tenendo alta la vigilanza, l'allerta, perché ovviamente non è che l'epidemia sia scomparsa dall'Italia. E il presidente della regione Fontana ha detto: non tutti i casi fortunatamente delle persone contagiate sono gravi, ma tanti richiedono un ricovero ospedaliero impegnando posti letto che sono destinati all'attività ordinaria delle strutture. E in effetti si sono presentate delle situazioni un pochino complicate, molto difficili. A Cremona, per esempio, l'ospedale di Cremona in pochissimi giorni si è passati da 12 posti in terapia intensiva a 3-4 reparti in cui si curano questi pazienti col coronavirus, ha detto il responsabile dell'azienda sanitaria di Cremona, Angelo Panna. E poi per quanto riguarda Lodi, che sapete è un po' la zona del Lodigiano con tutti una decina di comuni, l'epicentro di questo focolaio lombardo, l'Ordine dei Medici ha fatto sapere che insomma auspicherebbe che almeno per tutta la prossima settimana ancora le scuole rimangano chiuse per contenere l'epidemia. E allora saluto Massimo Vagliano, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Lodi. Dottor Vagliano, buonasera. Buonasera, sono Vagliani dell'Ordine di Lodi. Buonasera. Sì, io la ringrazio per la possibilità di comunicarvi le nostre criticità. Innanzitutto mi fa molto piacere il fatto che sia stata presa in considerazione la nostra proposta come ordine, quella di proseguire quantomeno la chiusura delle scuole e quelle misure cautelative almeno per la prossima settimana. La situazione qui da noi è zona rossa ovviamente, ma soprattutto il Lodigiano, quindi io la considererei più zona arancione che zona gialla rispetto ad altre province milanesi, perché siamo direttamente a contatto con la zona rossa, è abbastanza critica, quantomeno dal punto di vista della medicina territoriale, dei medici pediatri di famiglia. Noi abbiamo circa 180 medici nella nostra provincia, tra medici di famiglia, medici e pediatri, e 45-48 di questi sono nella zona rossa, che comprende una popolazione di circa 50.000 abitanti. In zona rossa ci sono parecchi colleghi che sono in quarantena e che continuano a lavorare in ambulatorio, due delle colleghe addirittura sono con la brandina in ambulatorio e continuano a fare un triage telefonico per poter aiutare sia i loro pazienti telefonicamente che i colleghi che sono ancora in attività. Oltretutto proprio da ieri pomeriggio a questa mattina ho saputo che altri quattro colleghi nella zona cosiddetta gialla, che io considero arancione, hanno manifestato una sintomatologia febbrile e polmonare. Quindi lei dice, dottor Vagliani, sì, dice zona arancione, non gialla, perché la considera un pochino più... È al confine, ci sono pochi chilometri di distanza, quindi tra un paese e l'altro, pochi chilometri che dividono la zona rossa da quella esattamente confinante, per cui a differenza della zona gialla considerata la Lombardia, quindi diversificata da Sondrio, Varese, Milano, Brescia, insomma, noi siamo proprio a contatto diretto. Ecco perché io auspicavo quantomeno la prosecuzione delle misure di contenzione. L'altra criticità che sto sollevando pesantemente in questi giorni è la mancanza di mezzi di protezione, di DPI. Noi abbiamo ricevuto a tutt'oggi solo 5 mascherine per ogni medico, mascherine ad alto voi dell'ordine dei medici di Lodi, cioè o allora, Lodi no no all'ordine di, cioè, allora ha mandato due tranche, la prima tranche la TS di Milano ha mandato 3 mascherine, la seconda tranche la SST, cioè l'ospedale, ha mandato 2 mascherine con solo 2 camici monouso. Lei capisce che le mascherine ad alto filtraggio hanno una durata di poche ore, per cui dopo devono essere smaltite. E anche quindi... se Borrelli, capo della Protezione Civile, in questi giorni, ieri mi sembra, o l'altro ieri, ha parlato di una centralizzazione dell'acquisto che quindi renderà più efficiente l'approvvigionamento di mascherine. Io mi auguro, però noi siamo sul campo e operiamo quotidianamente, quindi se ce le mandano fra 10 giorni, insomma, sarà molto difficile poterle... Io spero che la fornitura arrivi realmente al più presto. Così come io auspicavo e sto chiedendo pesantemente che nella zona rossa ci sono 2 ospedali, che sono l'ospedale di Codogno e di Casal Pusterlengo. In questi 2 ospedali sono stati chiusi pronto soccorso. Chiaramente tutta la cittadinanza, quando ha necessità di recarsi per qualunque tipo di patologia, escluse anche il coronavirus, deve essere ovviamente trasportata negli ospedali, nei nosocomi delle zone limitrofe, quindi Lodi, Crema, Piacenza. E quindi questo porta a una possibilità di trasmissione del contagio, e quindi la mia richiesta, visto che sono venuto a conoscenza che in altre regioni sono state così istituite delle tende all'ingresso del pronto soccorso proprio per cercare di fare un triage, un pre-triage diagnostico, possa essere anche fatta nella zona rossa, riaprendo magari gli ospedali. Io ho saputo oggi dal collega presidente di Pavia che sono stati inviati 5 medici del Policlinico in zona rossa per supportare proprio l'attività dei colleghi ospedalieri, e soprattutto ho saputo da lui che purtroppo anche alcuni medici di famiglia del Pavese stanno entrando un po' in quarantena, e quindi questo provoca sicuramente una criticità nella gestione dei pazienti. Altra grossa criticità che ho sollevato e che spero venga risolta più presto: noi abbiamo fatto nel territorio lucigiano uno screening con un tampone su tutti i medici di famiglia, oltre agli ospedalieri ovviamente, medici di famiglia e pediatri. La criticità è che il risultato di questo tampone viene dato dopo 6 giorni, quindi permettendo ai medici di continuare a lavorare senza avere la certezza della positività o della negatività. Ecco, questo è. Mi dica una cosa, dottor Vagliani, per quanto riguarda l'ospedale di Codogno, sentivo anche insomma che quello, diciamo, che è diventato lo stesso paese di Codogno, suo malgrado, è diventato un po' il simbolo, no, di questa, certo, emergenza, soprattutto per quanto riguarda Lombardia e comunque del focolaio in Italia. Sentivo che ci sono gli infermieri un po' anche loro collassati, che però non vengono sostituiti dai colleghi che non si sentono di affrontare la situazione, quindi assolutamente rimangono fuori. Io ieri ho mandato una lettera di ringraziamento per esprimere veramente la mia profonda gratitudine a tutti i colleghi, soprattutto ospedalieri di quella zona, che stanno affrontando la situazione con una abnegazione, una professionalità e un coraggio veramente molto forte. Stanno facendo dei turni senza essere sostituiti, con delle difficoltà anche di gestione della situazione. Questo sia medici che il personale infermieristico e qualunque tipo di operatore che opera all'interno dei nostri ospedali. Come si farà per ovviare a questa situazione se non c'è un turnover, un ricambio? La richiesta è proprio quella di potenziare, di far venire da altri nosocomi della regione, quantomeno medici e infermieri che possano sopperire a queste carenze. Ma questo vale anche per i medici di famiglia, perché a tutt'oggi nella zona rossa, particolarmente in un comune che è quello di Castiglione d'Adda, ripeto, su 4 medici, 3 sono in quarantena. Oltre a continuare a lavorare in triage, sono stati sostituiti solamente da un giovane medico, un giovane collega, che sta veramente affrontando una situazione difficile per gestire i 4-5 mila pazienti che sono senza medico attivo. Ecco. Chiaro, quindi la situazione è pesante. Fate queste richieste, dottor Vagliani, alla regione e anche al governo, insomma, a livello centrale. Io sicuramente le ho inoltrate anche ieri al presidente del Sentanelli della Federazione Nazionale, cui un po' facciamo capo, in modo che possa farsi carico di attivarle nelle sedi più opportune, insomma, oltre, chiaro, che l'altra criticità che io sottolineo un pochettino è che piacerebbe poter avere dei referenti che ci diano delle risposte immediate in merito a queste difficoltà che affrontiamo. Un altro grosso problema che secondo me non è da sottovalutare, lei sa che nella zona rossa i residenti della zona rossa sono esentati dal decreto per l'attività lavorativa, quindi sono chiuse le fabbriche, eccetera, quindi non possono né lavorare nella zona rossa né uscire dalla zona rossa. Lo stesso vale per chi abita fuori dalla zona rossa, ad esempio Lodi, e che lavora nella zona rossa. Il problema è che molti pazienti, molti cittadini che sono nella zona gialla, arancione, chiamiamola come vogliamo, ad esempio Lodi, e lavorano a Milano, quindi sono asintomatici, sono non positivi, eccetera, vengono rifiutati dal datore di lavoro. Quindi sì, il datore di lavoro chiede esplicitamente che si faccia una certificazione di malattia. È un cane che si morde la coda, insomma, sì, veramente lei complesso. Sì. Certo, ma lei può pensare che io non posso certificare una malattia di un paziente sano solo per il fatto che viene da Lodi, che viene considerato come un untore, e quindi c'è anche un risvolto medico-legale sulla certificazione. Insomma, quindi ha fatto benissimo, dottor Vagliani, a mettere in luce questi aspetti, e ci auguriamo proprio per... Io a mia volta cerco di dare poi voce a queste situazioni, perché al di là delle misure stringenti che si stanno prendendo e delle difficoltà comunque generali, insomma, è bene, soprattutto nelle zone più in difficoltà come la vostra, che si agisca in tempi ristretti e con efficacia il più possibile. Certo. Quindi mi auguro che si sblocchino le cose. Se posso terminare, non vorrei assolutamente creare panico, allarmismo, perché capisco che poi i media trasmettono magari una psicosi generalizzata, che magari è immotivata. Cerchiamo, però certo, nella zona nostra, ripeto, e la zona nostra non è la Lombardia, è una zona a diretto contatto, e quindi più si contiene, più si circoscrive la possibilità di diffusione, e tanto meglio è per tutti, insomma, perché poi viene a ricaduta. Ho capito che si parla di ristoranti, la perdita economica, ed è un dispiacere enorme. Però se si dovesse permettere anche l'allargamento di questo, andrebbe ancora più a peggiorare la situazione. Peggiorano, insomma, quindi prima la salute. Grazie, dottor Massimo Vagliani, ricordo, grazie, presidente dell'Ordine dei Medici di Lodi. Grazie. Grazie ancora, buona serata, buona continuazione. Buona serata a lei. Via libera. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano, sempre con voi, che a proposito di notizie, poi sto vedendo anche una cosa assurda, l'avevo sentita nei giorni scorsi, ma si faceva così delle battute, erano degli scherzi. Leggo da questa agenzia dell'ANSA: il coronavirus sta danneggiando le vendite della birra messicana Corona, soprattutto in Cina per l'assonanza del nome. E quanto ha reso noto il gigante delle bevande Anheuser Busch InBev, che detiene anche il marchio di questa birra. Ci sembra veramente una cosa folle, ecco, questo da, diciamo... vi dà anche proprio la misura a volte della follia umana, come diceva Mattarella all'inizio, il Presidente della Repubblica, che vi ho fatto sentire. Insomma, bisogna agire con buon senso. L'isteria, il panico, la paura, l'irrazionalità sono veramente cose che fanno molto più danno del virus stesso. Comunque adesso voglio salutare Giovanni Capuano. Caro Giovanni. Eccomi, Roberta, ciao, buonasera. Perché parliamo sia delle ricadute del coronavirus sulle partite maschili, femminili, immagino, anche in quelle più importanti, e poi anche delle estrazioni per quanto riguarda l'Europa League, i sorteggi, Giovanni. Ma guarda, se vuoi partiamo dal coronavirus. Sì. Quello che inizia stasera, domani di fatto, è il secondo weekend fortemente condizionato dall'emergenza coronavirus. Questa volta, a differenza di settimana scorsa, ci si arriva preparati per tempo, perché di fatto i provvedimenti sono stati decisi lunedì scorso, anche se poi si è dovuto attendere ieri sera e oggi per la ratifica ufficiale da parte della Lega Calcio. La Serie A non si ferma, perché non sarebbe stato possibile avere un'intera giornata da recuperare in più, perché quest'anno il calendario è particolarmente compresso per la presenza a fine stagione degli europei, e dunque c'era l'assoluta necessità di giocare. Tanto per darti un'idea, l'Inter, che ha saltato la partita di domenica scorsa contro la Sampdoria, potrebbe essere costretto a recuperarla il 20 maggio, perché prima potrebbe non avere neanche una data disponibile. Ecco, immagina dover inserire sui 4 recuperi di settimana scorsa un'altra intera giornata da recuperare. È quello che la Federcalcio e la Lega Calcio hanno detto al governo, e da qui si è arrivati alla decisione delle porte chiuse, che interessano 5 partite su 10. Si comincia domani alle 18 con Udinese-Fiorentina, poi domenica 12.30 Milan-Genoa e alle 15 Parma-Spalle-Sassuolo-Brescia. Ovviamente quella che ha fatto discutere più e che farà discutere di più è Juventus-Inter, il match scudetto, domenica 1 marzo, ore 20.45. Intorno a Juventus-Inter si è combattuta un'aspra battaglia tra pressioni per cercare di riaprirla e interpretazioni del decreto e dei provvedimenti della regione Piemonte, che tecnicamente scadono domani sera a mezzanotte. Però insomma, Juventus-Inter si gioca a porte chiuse senza diretta TV in chiaro, perché questa cosa intersecava poi con la legge Melandri sui diritti TV e le pretese degli operatori. Anche se Rai, Sky e Mediaset si erano rese disponibili per metterlo in chiaro, invece non sarà possibile. Giovanni, tra l'altro vedevo che però solo che la legge non lo prevede, infatti, e quindi è stato impossibile. Vedevo che Codacons minaccia di denunciare la Juventus per il caso dei biglietti della partita di domenica con l'Inter che si giocherà a porte chiuse. Come si risolve? Guarda, la vicenda non è semplice, il nodo dei rimborsi. In realtà 12 club su 20 della Serie A non li prevedono nei loro contratti d'acquisto di abbonamenti e biglietti. Cioè, se tu vai, compri l'abbonamento, compri il biglietto per una singola partita, di fatto non ti viene rimborsato praticamente per nessuna ragione. Questa è una clausola che è già nel mirino dell'antitrust, è finita nei mesi scorsi, ci sono alcune società che sono state messe sotto indagine, però è una pratica che in questo momento esiste tuttora. Qualcuno si è mosso, ad esempio il Milan, che gioca a porte chiuse domenica alle 12.30 contro il Genoa, ha annunciato il rimborso. Su Juventus-Inter al momento non c'è nulla, anche se in realtà ufficialmente la Juventus non ha ancora detto che negherà il rimborso. Ci sono anche in questo caso forti pressioni, però dobbiamo anche considerare ad esempio che Juventus-Inter per la Juventus rappresenta con le porte chiuse un danno tra i 3 e i 4 milioni di euro. Non è semplice andare da un'azienda, usciamo dal tema del club calcistico, e chiedergli di rinunciare a una fetta così importante del proprio fatturato. Grazie Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Se vuoi te ho in un flash l'Europa League. Sì, abbiamo Siviglia pochissimo Getafe, tempo. Le avversarie di Roma e Inter. Quindi si va in Spagna, due sorteggi difficili. Subito, sintetico, laconico. Grazie, lapidario, Giovanni Capuano. Grazie a te, Roberta. Ciao Giovanni. Perché abbiamo il collegamento, siamo riusciti finalmente a fare il collegamento con Marta Ottaviani. Ciao Marta. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, scusate per i problemi di campo. Ci mancherebbe, perché in mezzo a tutte queste cose non dobbiamo dimenticarci di una guerra infinita che da anni sta facendo pagare un prezzo altissimo alla popolazione civile in Siria, no? Una guerra che continua, che sembrava dovesse volgere al fine qualche tempo fa, poi invece ci si è messa di mezzo anche la Turchia, e quindi adesso il governo turco ha operato una controffensiva contro i raid siriani a Idlib. Diventa complicato adesso in poco tempo spiegare la situazione, ma insomma il governo turco ha annunciato che per vendicarsi dell'offensiva siriana non fermerà più i migranti che vogliono andare in Europa. C'è un milione di profughi che spinge verso la frontiera, no? Marta. Assolutamente, purtroppo bisogna dire che la Turchia, che doveva diventare un membro dell'Unione Europea, adesso rischia di infastidire l'Unione Europea tanto quanto, se non più, il coronavirus, perché tu parlavi del milione di rifugiati che stanno partendo da Idlib nel nord della Siria, dove si sta consumando in queste ore una guerra direi veramente senza quartiere tra Erdogan da una parte e Putin e Assad dall'altra, e che rischia di avere delle ripercussioni molto gravi in materia di immigrazione sull'Unione Europea, perché al milione di persone che stanno cercando di scappare da Idlib, quindi da una morte quasi sicura, si devono aggiungere anche gli altri 3 milioni e mezzo di rifugiati che si trovano in Turchia e che Erdogan minaccia di tanto in tanto di mandare sul suolo europeo. Oggi, anzi stanotte, la Turchia ha aperto di fatto le frontiere, cosa che aveva minacciato diverse volte negli ultimi anni. Questa volta è passata, come dire, dal dire al fare. Vedremo adesso come si riuscirà a ricomporre questo danno diplomatico e umanitario soprattutto, che però sembra veramente di difficile soluzione questa volta, perché o Putin, che è il grande alleato di convenienza a fasi alterne della Turchia, dà a Erdogan quello che vuole, quindi il controllo di una porzione del nord della Siria, oppure mette l'alleato turco al suo posto, e a quel punto però le conseguenze, temo, le pagherà l'Unione Europea. È una questione, come hai detto giustamente tu, estremamente complessa da spiegare, dove di fondo dal 2016 l'Europa, foraggiando la Turchia con cifre di denaro anche piuttosto consistenti, si parla di 6 miliardi di euro in tutto, ha cercato di voltare la faccia e di tamponare il dramma dei migranti lasciandoli in Turchia e pagando la Turchia perché se li tenesse pur di non ospitarli sul suo territorio, è diventata di fatto un oggetto di ricatto da parte della Turchia e adesso rischia di dover fronteggiare questa emergenza decuplicata rispetto a 4 anni fa. Terribile questa cosa, in più vedevo che c'è un rischio di una vera e propria carestia nel nord-ovest della Siria, dove secondo l'ONU sono stipati circa 4 milioni di siriani, e qui ci dobbiamo lasciare, insomma, vi potete immaginare che situazione. Grazie Marta Ottaviani. Ciao Marta. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Invece con Paolo Corazzon di Trevi Meteo chiediamo, insomma, se è il caso che a questo punto scenda anche un po' di pioggia, sia per lavare un po', diciamo, adesso non so quanto questa epidemia, ma anche perché c'è siccità tra le altre cose. Ma brava, esatto, più che per il coronavirus, per la siccità, perché davvero sta piovendo pochissimo, abbiamo avuto un inverno secchissimo e con temperature quasi sempre sopra la norma. Ora in effetti le cose un pochino cambiano, anche più di un pochino, cioè torna la pioggia sull'Italia, non saranno piogge preoccupanti, ma torna la pioggia quella vera. Già nel weekend un primo accenno, perché al centro-nord passa una perturbazione tra la fine di sabato e la giornata di domenica, quindi domani si parte bene, ma ripeto, a fine giornata nord-ovest le prime piogge e domenica il resto del centro-nord avrà una giornata piuttosto grigia, e poi settimana prossima saranno diversi i sistemi nuvolosi che transiteranno sull'Italia, coinvolgendola un po' tutta. Non è che sarà una settimana di pioggia continua, tutt'altro, però a più riprese dovremo rimettere mano agli ombrelli e ti ripeto, ne abbiamo anche un gran bisogno, va bene così. E vabbè, se necessario, vabbè, soprassediamo. Grazie Paolo Corazzon di Trevi Meteo, buon tempo a te comunque sia. Ciao buon Paolo. Buon tempo a tutti, ciao. Ci risentiamo brevemente alle 22.